Salva Danaio. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproporremo il meglio di alcune delle puntate andate in onda nelle scorse settimane. Acquisti online sotto Natale. Lo scorso 23 dicembre a Salva Danaio, in piena corsa all'acquisto dei regali di Natale, abbiamo parlato della spesa online, che quest'anno ha registrato un vero e proprio boom. Ospiti di Deborah Rosciani sono stati Roberto Liscia, presidente di Netcom, e Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS Internet Bookshop. Nessuna coda alle casse, niente più corse dell'ultimo minuto tra strade trafficate e marciapiedi affollati. È anche per queste ragioni, accanto a convenienza e a una maggior disponibilità, che milioni di italiani quest'anno hanno deciso di comprare i regali di Natale sul web. Tanto che le vendite su internet hanno fatto registrare un vero e proprio boom, con una spesa media pro capite pari a 162 euro. Un trend dunque in netta controtendenza rispetto al difficile momento che stanno attraversando i commercianti. A prescindere dal Natale, l'acquisto su internet è comunque una strada che ha preso sempre più piede tra gli utenti. Gran parte di questo successo deriva dalla diffusione delle carte di credito, che offrono l'immediatezza della transazione e oneri ridotti a zero. Per l'utente il sistema è più conveniente, perché l'eventuale costo della transazione è attribuito al venditore e non al compratore. Bisogna però considerare che le tradizionali carte di credito e i relativi codici sono sempre collegati a conti correnti e l'utilizzo intensivo su internet presso diversi negozi online può quindi esporre a rischi. Per questi motivi, la clientela sta sempre più rivolgendosi a servizi come le carte prepagate e gli e-wallet, borsellini elettronici, che sono stati studiati per effettuare in maniera rapida e sicura pagamenti online anche di pochi euro. 800 24 00 24, numero verde per le vostre considerazioni con noi questa mattina, ma scriveteci anche se volete al 349 238 6666. Prima di intraprendere la conversazione con Roberto Liscia e Mauro Zerbini, volevo ricambiare tutti gli auguri che ci stanno arrivando a me e alla redazione di Salva Danaio, dai nostri ascoltatori appunto all'SMS, per cui considerateli tutti quanti ricambiati con grande affetto. Anche a voi naturalmente dobbiamo il successo di questa trasmissione, speriamo anche per voi che questo sia una Natale sereno per tutti, anche per le famiglie che sono in difficoltà, visto che noi parliamo sempre del portafoglio. Qualche volta non è molto piacevole continuare a parlare di questo argomento, me ne rendo conto, però io vi auguro davvero, vi abbraccio tutti con grande affetto e vi ringrazio a nome della mia redazione, in particolar modo a nome di Gaia Romani ed Alessandro Longoni, che mi aiutano e hanno tanta pazienza con me per preparare sia Salva Danaio che Soldi e Dintorni. Allora, andiamo subito ai nostri interlocutori di questa mattina. Vedo già tanti ascoltatori sia in attesa per intervenire e molti che ci stanno scrivendo. Roberto Liscia, presidente di Netcom. Peraltro, quando parliamo di commercio elettronico, no, pensiamo che tutto questo mondo sia, come dire, ad appannaggio solo del settore high tech, del settore tecnologico. Invece su internet si vende di tutto ormai, anche i prodotti del settore gastronomico, no? Addirittura ci sono alcune aziende, per esempio, che veicolano i prodotti solo attraverso questo canale, per cui oggi si può trovare davvero di tutto su internet. Presidente. La risposta è assolutamente affermativa. Continuiamo a parlare di commercio elettronico. Spero che tra qualche anno non parleremo più di commercio elettronico ma solo di commercio, perché l'aspetto tecnologico di internet è soltanto un mezzo che di fatto dà una serie di privilegi, servizi che spesso sono sottovalutati. Oggi su internet si può comprare veramente di tutto e di tutto viene comprato. Vi faccio soltanto un esempio. Quest'anno, tra alcuni prodotti curiosi che vengono comprati su internet per il Natale, ci sono gli orologi a cucù in legno, che probabilmente sarebbe stato difficile trovare in un negozio ordinario, e stanno vendendo in maniera significativa. Il che sta a significare che su internet si possono comprare delle cose che spesso è difficile anche trovare nella distribuzione normale. Infatti, per esempio, alcuni ascoltatori già precisano, quelli un pochino più prudenti sull'utilizzo di questo mezzo: io compro solo quello che per esempio non trovo e non posso toccare con mano, quindi proprio quasi se si è costretti ricercando magari un articolo particolarmente, non lo so, introvabile, presidente. Diciamo che queste sono le persone che non sono abituati a comprare online. Perché come dirà Mauro Zerbini, immagino, ma voglio dire c'è anche l'esperienza di Oepli, l'incremento della vendita di libri a Natale nel periodo ottobre-dicembre, per esempio Oepli dichiara che a Natale sono stati venduti più 35% di libri rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e i libri, se non c'è un prodotto normale, tradizionale, convenzionale come il libro, è difficile trovare qualcosa di più convenzionale. Ma sempre sul libro vi faccio un esempio molto interessante, che è diminuito l'acquisto, se vogliamo, di libri online a Milano su questa libreria, ma si sono incrementati dell'80% i libri a Padova, Catania, Palermo e a Firenze. Quindi ha ampiamente compensato il calo delle vendite sul canale tradizionale, sulla grande piazza di Milano, incrementandole altrove, in sostanza. Incrementandole altrove, il che sta a significare che l'incremento che c'è su internet, anche nei prodotti tradizionali come il libro, con punte, come dicevamo prima, del 35% Natale su Natale dell'anno scorso, dimostra il fatto che gli italiani accedono a questa libreria virtuale, perché spesso è difficile, per esempio, accedere ad una libreria reale in un paese magari più decentrato, infatti, in un piccolo comune o in una città che è meno fornita di librerie. Quindi intanto, perché per esempio potrebbe sollevare l'obiezione della cannibalizzazione all'interno dei medesimi settori, in realtà così non è. Ci sono dei canali, insomma, che possono addirittura sfruttare le potenzialità di internet laddove appunto certi settori non riescono a penetrare completamente la clientela in tutto il territorio. Perché anche questo, questo è particolarmente vero in un paese come l'Italia, che è fatto da 8.000 comuni, di quali gran parte sono piccoli e gran parte hanno una distribuzione locale di dettaglio in tutte le merceologie, dall'alimentare al prodotto di abbigliamento al prodotto di high tech, che ha una forte evoluzione, dove il punto di vendita fisico non riesce ad avere un'offerta e un mix d'offerta che può essere in qualche misura completa come quello che si può avere su internet. Presidente, adesso esploreremo un po' meglio il fenomeno in termini generali, però mi interessa sapere anche com'è andata in questo periodo di Natale. Assolutamente. Allora, Natale, questo Natale 2009. Che, con piacere. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca su diciamo gli operatori che fanno parte del consorzio, ed è molto interessante vedere che c'è stato un incremento tra Natale di quest'anno rispetto al Natale dell'anno scorso, e questo in controtendenza rispetto alla crisi del punto di vendita tradizionale, che passa dal 35 al 50% medio. Quindi diciamo che c'è stata una crescita che possiamo dire all'incirca del 40% in media su tutte le merceologie. Crescita dovuta, secondo lei, le chiedo a bruciapelo, poi le ripeto, approfondiremo anche questi aspetti, dovuta alla ricerca di risparmio su internet o dovuta ad una riduzione dello scetticismo che magari pervadeva un po' questo mercato negli anni passati? I componenti sono molteplici e c'è sicuramente la ricerca di risparmio, nel senso che su internet è possibile comparare i prezzi, le funzionalità, i prezzi, cosa che è più difficile fare in un punto di vendita tradizionale, ma soprattutto non dimentichiamo il fatto che l'accessibilità all'offerta è decisamente più ampia che non in un punto di vendita tradizionale. Su internet è possibile accedere, l'esperienza di Amazon dimostra che l'offerta, l'ampiezza dell'offerta è un valore molto importante per l'acquirente. E poi non c'è da sottovalutare il fatto che l'italiano sta diventando più esperto, sta a utilizzare il computer. No, è un canale che si può utilizzare molto bene per confrontare i prezzi, questo è un aspetto forse molto trascurato in passato, per cui sicuramente con un click si riesce a comparare magari proprio quanto viene prezzato un articolo rispetto ad un altro, piuttosto che girovagare per 20 negozi. Adesso qua magari i negozianti si arrabbieranno oggi anche con me, però è un fenomeno che è in crescita talmente importante che non possiamo non tenerne conto. Io peraltro ho citato presidente Liscia, Amazon e vicepresidente Piacentini, doveva essere con noi questa mattina ad arricchire la nostra puntata, con il maltempo bloccato a Londra non ha potuto raggiungerci, ma lo metteremo a disposizione dei nostri ascoltatori sicuramente in un'altra puntata a più presto. Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS Internet Bookshop, che tra l'altro collabora molto anche con Radio 24, il sito italiano più popolare per la vendita via internet di libri, video, DVD. E allora io tra l'altro poi vorrei dare anche qualcuno dei vostri numeri per capire come sia un ambito molto fiorente quello di cui stiamo parlando questa mattina. Come sta andando a Natale? Questo Natale? Veramente bene. La settimana che si è appena chiusa abbiamo avuto il 37% in più degli ordini rispetto all'anno scorso, ed è stata diciamo una settimana diciamo di picco in controtendenza con gli altri anni. In generale gli altri anni il picco degli ordini arrivava verso il 10 di dicembre, E questo secondo noi è forse anche un segnale della maggiore fiducia che c'è da parte dei consumatori nei confronti dei negozi online. Cioè, prima si cercava di ordinare molto prima del Natale per non avere poi problemi nella ricezione della merce, evidentemente oggi si sono abituati a livelli di servizio che sono ormai diventati molto molto buoni e quindi gli ordini arrivano più a ridosso, diciamo, certo, del Natale. L'importante è che non siano arrivati troppo a ridosso del Natale, perché se non riuscite, ovviamente. Nonostante, peraltro, mi raccontava Zerbini prima in questa telefonata, come sempre me lo racconta i nostri ascoltatori che preventivamente facciamo ai nostri ospiti, ovviamente i nostri magazzini sono super forniti, ma anche la neve ci mancava in questi giorni a bloccare un po' le nostre spedizioni regolari, però insomma a quanto pare siete riusciti ad accontentare più o meno tutti quanti, a meno che chiaramente un ordine non arrivi oggi e chiaramente per domani non ce la si può fare. Zerbini, gli ordini a voi arrivano ovviamente da tutta Italia ed aveva ragione Presidente Liscia quando diceva che soprattutto internet permette per certi articoli di coprire magari zone del territorio che certi servizi commerciali non riescono a raggiungere. Adesso non è che parliamo del paese africano, ovviamente del Ruanda, dello Zimbabwe, e però certo, insomma questo è un problema che c'è, che dobbiamo riconoscere. Sì, questo è uno dei punti di forza dell'e-commerce, no? Che poi viene particolarmente percepito dove si vendono libri, CD musicali, DVD, videogiochi, dove i cataloghi sono cataloghi di centinaia di migliaia di articoli. Più è piccolo il centro e più sono piccoli i negozi che ha a disposizione il consumatore dove vive e più viene percepita la differenza della vastità dell'assortimento del negozio online. Allora, Marco dalla provincia di Milano, buongiorno, all'800240024 per parlare di e-commerce, acquisti online, li fate, non li fate, cosa vi frena invece, se oppure siete dei compratori folli come vorrei essere io se non fosse che ho poco tempo e anche il portafoglio poi tutto sommato bisogna tenerlo sotto controllo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io è già da qualche anno che faccio acquisti, prima ho cominciato su eBay e poi altre cose online. Il grosso freno che c'è sull'e-commerce, sia dall'estero verso l'Italia che sia all'interno dell'Italia, sono le spedizioni. Se noi abbiamo le poste o i corrieri che sono disastrosi, cioè, l'ultimo esempio che le posso fare, dopo gliele faccio uno io, Marco, che si diverte. Sì, vada. Io ne ho due recenti abbastanza pesanti. Uno è una spedizione dalla Germania che dal 7 di dicembre che ferma non si sa dove in Italia, il giorno dopo era in Italia, adesso è dal 7 di dicembre che ferma. E l'altra spedizione è dagli Stati Uniti che random, perché in Italia le cose non hanno mai una regola fissa, random vengono fermate in dogana. Sì, è vero, e sono esattamente i due aspetti che volevo raccontare io, Marco, per un acquisto che io ho fatto sempre dagli Stati Uniti, stessa cosa, dalla stessa società, comprati tre articoli diversi, per due ho pagato la dogana, ma lì lo sapevo, per il terzo no, e lì è ovviamente una questione che avviene, come diceva lei, a campione random, ma il bello è stato proprio lo spedizioniere che ce l'aveva in carico in Italia, che sostiene di essere passato per quattro volte a casa mia senza lasciarmi mai una comunicazione, dopodiché se l'è ritenuto in magazzino e l'ha rispedito indietro. Io non so per quale motivo sia successo tutto questo, per cui le aziende indubbiamente sono molto serie, tutti i servizi accessori, Presidente Liscia, qualche cosa però lo lasciano a desiderare. Sì. Ne siete coscienti oppure insomma è un fenomeno che ritenete sotto controllo? Ma direi, io farei questo punto. Qualche anno fa l'Italia era il paese più arretrato nelle vendite per corrispondenza, perché tutta la consegna veniva tramite le poste italiane e sappiamo benissimo dell'inefficienza storica che ha frenato il settore delle vendite per corrispondenza in Italia. In tutti i paesi del mondo occidentale le vendite per corrispondenza funzionavano, in Italia no. Da quel periodo l'Italia ha fatto dei balzi in avanti straordinari con la privatizzazione e con la libera concorrenza degli spedizionieri e della logistica, che oggi è in qualche misura distribuita tra diversi operatori. Mediamente devo dire che i casi che voi citate sono casi marginali nel fenomeno delle consegne a casa. È chiaro che se ne possono elencare Poi sicuramente il canale straniero è più problematico di quello italiano, sì. Ma quello straniero neanche più di tanto, perché poi viene riportato su degli spedizionieri italiani o comunque su degli spedizionieri che hanno delle basi in Italia. Io compro continuamente in America, a Hong Kong, e devo dire che di casi problematici ne ho riscontrati anch'io personalmente, ma rappresentano una quota irrilevante rispetto alla qualità del servizio. Sì, sì, certo, ma percentualmente anche... rispetto ai numeri del settore immagino che effettivamente la quota sia minima, giustamente lei fa bene a precisarlo, e però poi questi casi capitano e vanificano sicuramente andando al negozio tradizionale, magari ci arrabbiamo per un altro aspetto, ma non per questo. Ma secondo lei sono comunque settori sui quali discute, come dire, problematiche delle quali discutete? All'interno sono problematiche delle quali discutiamo, e devo dire che molti operatori si stanno anche organizzando con meccanismi di pick and pay, cioè con punti fisici dove si può poi andare eventualmente a ritirare direttamente il prodotto. Per esempio, se molti non hanno il custode, allora arriva il prodotto e il prodotto non c'è, non trova in casa il cliente, uno lo può andare a ritirare. Molti operatori si stanno organizzando anche con una telefonata preventiva, dando l'orario in cui avverrà la consegna. Ma infatti lì io mi sono stupita, per esempio per il caso mio, visto che avevo lasciato numeri di telefono a tutti, mi sono stupita del fatto che nessuno mi abbia contattato minimamente, neanche per concordare, visto che sostiene lo spedizioniere che mi ha lasciato, che è passato almeno 4 volte a casa mia, ma che nessuno si sia preoccupato di fare una telefonata. Forse in quel rapporto lì potrebbe essere perfettibile, come dire, tutto il processo, no, di acquisto online. Per il resto però, insomma, da quello che capisco anche degli ascoltatori, liscia, poi so che l'ho interrotta brutalmente, ci sono comunque molti ascoltatori estremamente soddisfatti. Ci fermiamo per qualche minuto. Salvadanaio torna tra poco. Salvadanaio. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Salvadanaio, in cui stiamo riproponendo il meglio delle puntate andate in onda nelle scorse settimane. Riprendiamo il tema dell'acquisto online, che quest'anno ha avuto una grossa espansione, grazie anche alla corsa agli acquisti prefestivi. Cominciamo con Pina da Pavia, che aspetta da un pochino. Pina, buon Natale e benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo dare un contributo a questa trasmissione, molto interessante. Sono in giro in macchina, mi sono accostata. Che bello, per parlare. Brava, brava, perché Pavia com'è dal punto di vista della neve? Tranquilla? Strade sgombre? Oggi, da ieri è un po' migliorato, ma ce la siamo vista per 2 giorni. Abbiamo molti colleghi che arrivano da là, sì. No, soprattutto per chi si doveva spostare su Milano con i treni, è stato... Vabbè, non togliamo tempo. No. Andiamo all'online, al commercio online. Esatto. Allora, io sono una veterana degli acquisti online, nonostante la mia non giovane età. Da appena è stato possibile, quindi tutte le banche online, le prepagate, io ho attivato tutti i servizi, mi sono trovata sempre benissimo, ho risparmiato tantissimo tempo, niente più file in banca, cercare il parcheggio, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda gli acquisti natalizi o meno, sentivo l'ultima esperienza, la sua e di quel signore, devo dire effettivamente è vero, una minimissima percentuale non va a buon fine, ovvero qualche pacco che vaga per l'Europa, pacchetto a me è successo una volta per lo stesso motivo che ha citato lei, ovvero nessuno mi ha lasciato Il messaggio, lo spedizioniere, il corriere. Né messaggio telefonico, né niente, quindi il pacco ha fatto tutto il giro dell'Europa, è rimasto, poi è andato prima in Germania, poi in Danimarca, poi non so mai più se è tornato in Scozia, non lo so che cosa sia successo. Però insomma complessivamente lei è contenta, utilizza molto questo canale e trova grande risparmio, ma cerca risparmio o si diverte di più, Pina? Com'è? Lo fa anche per ricercare un po' di risparmio rispetto agli articoli a cui è interessata, o lo fa anche proprio perché si diverte, dipende, perché non fa code? Allora, attualmente per quanto riguarda i regalini per il Natale, l'ho fatto per il risparmio, ho acquistato sia per me, mi sono fatta una scorta che mi basterà forse per un anno, e per tutte le donne e affini della famiglia, ho acquistato cosmetici. Chiaramente le devo fare poi una telefonata in privato, Pina, per darmi, le devo fare una telefonata in privato. Benissimo, dopo, le darò molte dritte. Senz'altro. Praticamente ho risparmiato i due terzi, dai due terzi alla metà rispetto ad acquistare in Italia, comprando in Gran Bretagna. Perfetto, Pina, io la ringrazio per la sua testimonianza, non voglio dilungarmi ancora perché ci sono tanti altri ascoltatori in attesa, ce ne sono molti anche che mi scrivono, uno molto divertente dice: salvo la spesa che la moglie mi vieta, praticamente acquisto tutto online, prevalentemente su eBay, DVD game, scarpe, abbigliamento elettronico, ormai da 10 anni si risparmia almeno il 20-30% dal negozio fisico. Certo, bisogna anche essere accorti nell'utilizzo della strumentazione che si utilizza, PC sempre protetto da virus e spam. Allora Mauro Zerbini, anche da questo punto di vista possiamo dare delle indicazioni, IBS Internet Bookshop, ai nostri ascoltatori su come fare anche un acquisto, come dire, all'insegna della prudenza, perché poi non è che ci possiamo avventurare su internet dall'oggi al domani senza avere neanche coscienza, no, di ciò che stiamo facendo. E se vuole intervenire anche sulle problematiche che abbiamo sollevato rispetto per esempio alle questioni della consegna dei beni acquistati tramite l'e-commerce. Io appunto ne approfitterei per sfatare, direi, due miti, due leggende negative, diciamo, sull'e-commerce. Appunto, una è quella delle spedizioni che non funzionano. Il Marco, che è intervenuto prima, no, ha citato due acquisti che arrivavano da fuori d'Italia. Sì. Ora, gli acquisti fatti all'estero passano di mano da diversi operatori, spedizionieri, sì, Corriere Espresso, no? E quindi diciamo che è possibile che questi pacchi a un certo punto vengano persi di vista. Ma quando l'ordine viene fatto su un negozio italiano, come è il nostro, noi consegniamo a un operatore, quell'operatore, quello spedizioniere, lo ha in consegna fino al momento in cui lo dà al cliente, quindi è sempre possibile per noi e anche per il cliente a cui diamo l'esatto indirizzo sul sito dello spedizioniere dove può verificare l'andamento della consegna. Esattamente, c'è il record, il track record. Quindi questo fa una grossa differenza. Guardi, no, però mi chiedo, dottor Zerbini, mi chiedo per esempio, se voi per 3 giorni non trovate l'acquirente a casa, perché può essere successo di tutto, non è che la gente, voglio dire, non sta a casa dalle 10 alle 3 del pomeriggio come è capitato a me perché si diverte, perché lavora. Allora io mi chiedo anche, uno spedizioniere, ma non gli viene in mente che una persona non può essere a casa perché può essere andata improvvisamente in ospedale? Allora qual è anche lì, come dire, il vincolo, l'obbligo che voi impartite allo spedizioniere che utilizzate? Allora, intanto quando richiamate indietro l'articolo, cioè a che punto della difficoltà della consegna? Allora, intanto i corrieri che utilizziamo hanno in carico anche l'onere di una seconda consegna, ricontattando per telefono il cliente e fissando eventualmente un secondo appuntamento. No, perché insomma aver saputo anche queste cose, col mio mi arrabbiavo anche un po' di più, visto che sostengono questo, ad averlo fatto almeno 4 volte senza lasciare un biglietto. Ecco. Poi naturalmente noi sul sito, quando il cliente fa l'ordine, sottolineiamo che fornisca un indirizzo presidiato, può essere anche quello del luogo di lavoro, di un negozio sotto casa, piuttosto che di un parente. E oggi poche case hanno le portinerie e questo è sicuramente oggettivamente un problema per la consegna di questi pacchi. Certo. Che richiedono una firma di chi riceve. Ma le nostre statistiche, che abbiamo appunto dai file delle consegne che ci arrivano dai Corrieri Espresso che utilizziamo, ci dicono che dal 70-75% dei pacchi che noi spediamo vengono consegnati nelle 24 ore. Si arriva al 90% nelle 48 ore, perché ci sono poi piccoli centri. Certo. E alla fine rimane sì e no un 4-5% di prodotti non consegnati a clienti ai quali poi il corriere deve effettuare poi una telefonata e fissare. Però insomma è una percentuale che ci sta e in ogni caso che si conclude con un rapporto diretto tra quello che deve consegnare e il cliente, non è che questa roba, poi questo 5% di merce chissà dove va a finire, viene consegnata con un po' più di benissimo. Mario da Modena, benvenuto a Salvadanaio. Grazie, anch'io sono un accanito utilizzatore dell'acquisto online. Cosa compra Mario? Di tutto, libri, scarpe, vestiti, elettronica molta. No, ma tra l'altro per i vestiti lei è contento, perché lì, voglio dire, è anche un settore che allora, poi non ce la possiamo prendere con nessuno, ma le misure non sono mica sempre tanto precise. Le dico due cose, soprattutto scarpe e vestiti, ad esempio. Bisogna essere un po' più attenti. Di cui avete parlato poco, la possibilità di restituzione. Eccoci qua. Penso freni molto molti che acquistano. in generale tutte le aziende serie che vendono, e anche i privati su eBay che abbiano quel minimo di feedback positivo, eccetera, danno garanzia di restituzione. E io in generale ho già fatto acquisti, lei compra una scarpa inglese, mm-hmm, il suo numero poi arriva che è quasi un numero in più, anche se marcata, ma è vero, sai, sì, soprattutto con le marche anche straniere. In Italia lo stesso numero non è mai uguale. Quindi questo bisogna saperlo, bisogna sapere se già c'è la possibilità di restituzione, e poi bisogna fare un altro paio di conti, cioè se io compro una scarpa, butto lì, esagero, da 19 euro e ne ho spese 8 di spedizione, e quando restituisco è sempre, o almeno 99 volte su 100, a carico mio la rispedizione. Sì. Cioè questa non viene, ecco, allora è chiaro che se ne ho spese 19 e ne spendo 15 tra spedizioni, è meglio che me la tengo e la regalo a qualcuno col piede più grande o più piccolo. Eh beh, Mario, pure quella potrebbe essere, sì. No, per dire, capito, se io ho speso 100, 150, 200 euro, vale la pena la restituzione. Non è sempre detto che si trovi poi il numero... e quindi viene fatto infatti rimborso. No, qualche volta sa cosa mi suggeriscono, siccome tra l'altro questo acquisto che mi è andato, che non mi è andato a buon fine, era proprio un paio di stivali, ma molte colleghe che invece hanno fatto lo stesso procedimento mio e si sono viste recapitare regolarmente lo stivale a casa con mio grande disappunto, e loro mi suggeriscono: prima vai a provarlo in negozio, perché sicuramente magari è un articolo che in Italia lo trovi, e quindi poi fai la cerchi praticamente la stessa misura, ecco. Vabbè. Se la funzionalità è solo sul risparmio, se la funzionalità per me è anche non dover girare, perché non ne ho tempo e non ne ho voglia, giustamente, di stare in mezzo, infatti, se no vanifichiamo tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Ecco, sì. Io preferisco, arriva, va bene, se è andata bene, è andata bene, se è andata male, amen, lo rimando, eccetera. Benissimo, Mario, guardi. La cosa interessante è trovare oggetti che lei fa fatica a trovare. Io ho trovato libri fuori edizione, per esempio, addirittura a prezzo di copertina. Bisogna un po' darsi da fare, ma diversamente lei ha un parco venditori che è impossibile averlo da una singola città, magari solo. Benissimo, grazie Mario per i suoi suggerimenti anche molto pratici e molto di buon senso. Roberto Lisci, presidente di Netcom. Allora Mario giustamente ci sollecitava ad affrontare il tema del diritto di recesso. Se l'articolo che ci arriva a casa è difettoso, non ci va bene, di misura sbagliata, magari noi riteniamo di aver fatto l'ordine giusto, ma la casa, soprattutto nell'abbigliamento, credo questo possa capitare, ci manda una taglia che non corrisponde al nostro fisico, insomma lì il diritto di recesso è ben disciplinato. In questo settore come funziona? Ma c'è una legge europea che è stata poi diventata legge anche per i singoli paesi e anche per l'Italia, che obbliga qualsiasi vendita a distanza e via internet a garantire all'acquirente il diritto di restituzione entro i 10 giorni. Ecco, questo, ma se per esempio adesso magari posso aver fatto l'ordine sbagliato, no? Aver scelto una misura sbagliata di un capo d'abbigliamento, se però per esempio l'articolo è proprio difettoso, io devo spendere anche per restituire l'articolo e farmelo ritornare, ecco lì le spese di spedizione, allora, poi devo affrontarle. La legge dice che il prodotto può essere restituito e deve essere rimborsato. Le spese di spedizioni sono a carico del cliente, il quale ovviamente può avere dei fornitori, dei merchant, dei negozianti che per ragioni commerciali gli dicono anche che la restituzione è senza onere, ma questo diventa in qualche misura un fatto commerciale. Mm-hmm. Tenga presente che in Germania nell'abbigliamento il 50% dei prodotti acquistati via internet vengono restituiti esattamente per questa ragione, che vengono provati, cioè si utilizza internet non soltanto per acquistare ma anche per provare il prodotto prima di trattenerlo. Il tema del costo della spedizione è ovviamente, questo si può fare quando si fa una valutazione della convenienza, come diceva l'ascoltatore, certo, che il prodotto debba avere un certo valore. Noi peraltro abbiamo fatto un sigillo che si chiama sigillo Netcom, che obbliga tutti i soci ad esporre questo marchio sul proprio sito e garantisce il cliente che quando ha acquistato da un socio di Netcom, il socio di Netcom si obbliga a garantire gli obblighi di restituzione. Perfetto. Quindi non è soltanto un fatto di legge, ma un fatto anche di obbligo morale da parte del socio di Quindi Netcom. Quindi quando scegliamo il negozio online, magari verifichiamo che abbia anche apposto questo sigillo, questa certificazione del consorzio, perché sicuramente ci tutela ancora di più. Salvadanaio torna fra qualche minuto. Salvadanaio. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata al meglio delle trasmissioni andate in onda nelle scorse settimane. Ora vi proponiamo un estratto da Soldi e Dintorni del 24 dicembre scorso, in cui si è parlato dei consigli per gli acquisti di spumanti in vista delle festività in corso. Ospite di Deborah Rosciani, Gianpietro Comolli, economista di vini e responsabile dell'Osservatorio Mercati e Consumi. Buongiorno a tutti, benvenuti a Soldi e Dintorni. Una puntata così sarebbe da cominciare con un tappo che salta qui in studio, con le bollicine che sfrigolano. A poche ore da buffate festive varie di Brindisi ci troviamo a parlare di spumanti, un tema probabilmente un po' inconsueto per il nostro piccolo contenitore dedicato all'economia. Però, siccome quest'anno si è registrato un boom di vendite e un forte incremento nell'export di vini e spumanti italiani, allora noi oggi vorremmo affrontare questo argomento perché interessa sicuramente molte famiglie e soprattutto vorremmo dare qualche suggerimento d'acquisto ai nostri ascoltatori se ci fossero appunto in ascolto dei ritardatari che non hanno ancora completato il menù con lo spumante giusto. Ringrazio e saluto Gianpietro Comolli, direttore Forum Spumanti d'Italia, economista di vini e spumanti, responsabile Osservatorio Mercati e Consumi. Fa un sacco di cose, dottor Comolli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E buona vigilia di Natale anche a lei. Lei ha già completato il suo menù con i vini e gli spumanti giusti? Sto preparando la cena della vigilia. Benissimo. Per degli amici. Allora, se riusciamo, magari alla fine della nostra trasmissione ci darà anche qualche indicazione sul tipo, insomma, di pietanze che ha preparato, visto che ci piace mangiare. La vigilia deve essere di magro, perché logicamente è vero. Bisogna rispettare una certa tradizione. Ma sappiamo quanto siamo magri noi italiani, anche quando dovremmo rispettare la regola del magro. Comunque. Benissimo. Allora, poi, un emiliano come me è difficile che rimanga sul magro. Allora, tra l'altro il tema, come dire, del mercato del vino italiano, dello spumante, è un tema che è stato ampiamente affrontato anche a Focus Economia per quello che riguarda gli aspetti economici in termini generali. Il gastronauta, invece, il nostro Davide Paolini ne parla spesso di questo tema, ovviamente sempre nei termini di abbinamento con le pietanze. Però in termini generali, dottor Comolli, lo spumante alla tavola degli italiani è sempre irrinunciabile. Leggo una cifra, si stima 90 milioni di bottiglie stappate in Italia per le festività che stanno arrivando? Sì, esatto, 24 giorni di fuoco, di botti, diciamo così, anche se l'educazione prevede che il rumore non ci debba essere stappata con calma la bottiglia di spumante, sì, perché è una questione di educazione. E quindi 90 milioni, quindi presumiamo intorno a 40-45 milioni di calici che voleranno tranquillamente in questi giorni. Ecco, 90 milioni di bottiglie che si traducono in quanta spesa per le famiglie italiane? Ma quest'anno sicuramente un po' meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo toccato una cifra veramente straordinaria, che sono stati 800 milioni di euro. Quest'anno si presumono 720 milioni di euro, perché c'è un leggero calo nel prezzo della singola bottiglia. Ecco, i cali del prezzo della singola bottiglia che sono stati determinati proprio, come dire, un po' dalla crisi finanziaria che anche questo settore ha dovuto affrontare, o ci sono state altre ragioni, dottor Comolli? Beh, diciamo che come settore spumantistico italiano, che siamo soliti dividere fra spumanti e bollicine, perché noi italiani abbiamo una diversità rispetto a tutti gli altri paesi, produciamo due tipologie diverse di prodotto, devo dire che venivamo da anni di grande euforia e di grande incremento, non solo nei volumi, neanche nel valore. Faccio un esempio molto chiaro: nel 2008 per la prima volta l'incremento del valore ha superato l'incremento dei volumi, quindi vuol dire che le bollicine italiane in Italia e all'estero sono state più apprezzate anche in termini non solo di qualità ma anche di valore singolo della bottiglia, per cui un piccolo ridimensionamento credo dovuto in parte a una situazione di crisi, in parte da anche una oculatezza degli imprenditori che hanno voluto che questo prodotto continuasse ad essere presente sulla tavola degli italiani. Ecco, avete stimato anche una media della riduzione dei prezzi per questi generi, giusto? Quanto sono scesi? Sì, l'osservatorio fa tutti questi calcoli. Devo dire che in Italia la riduzione del prezzo è stato leggermente superiore rispetto a che all'estero. Abbiamo quantificato in un 5% sul mercato nazionale e un 4% sul mercato estero. Questo ha forse determinato sul mercato estero un ulteriore incremento, perché ricordiamoci che nel 2009 presumiamo sicuramente che l'estero farà un più 11% in volumi, quindi sicuramente questa tipologia di prodotto, il Made in Italy, il marchio Made in Italy abbinato alle bollicine vince sicuramente. Senta, che tipo di abitudini di consumo hanno le famiglie italiane, nel senso che cercano comunque anche lo spumante, le bollicine, come dire, prodotte in un ambito territoriale vicino a, come dire, alla propria città, alla propria abitazione, oppure si cerca in ogni caso il prosecco di Valdobbiadene, anche se si abita in Sicilia, tanto per dirla così, insomma, facendo un esempio pratico? Allora, facendo un esempio molto pratico, all'estero diciamo che Asti e spumante fanno il 90% del mercato nostro, quindi all'estero vinciamo secondo due termini ben precisi abbinati al Made in Italy, mentre invece in Italia ha perfettamente ragione lei, il campanilismo e i mille comuni di macchiavellica memoria sicuramente si rispecchiano anche in queste scelte molto localistiche. Moltissimi prodotti raggiungono il 40, 50, 60% del consumo all'interno della propria provincia, all'interno del proprio, della propria regione. E teniamo conto che in Italia, anche qui eccezionale rispetto a tutti gli altri paesi, c'è una ricchezza tale di prodotti che ci sono 280 spumanti a denominazione di origine sparsi per tutta l'Italia. Ci sarà anche una tendenza al risparmio da parte di tutti in questo Natale, per qualche famiglia magari purtroppo un pochino più austero che per qualche altra, ma lo spumante appare sempre irrinunciabile, come abbiamo detto, anche chi non ha molti soldi da spendere può trovare delle buone soluzioni per poter brindare con una buona fetta di panettone e festeggiare al meglio. Ma secondo lei, dottor Comolli, gli italiani fanno in questo campo degli acquisti avveduti o si lasciano condizionare solo prevalentemente dal prezzo oltre che dal gusto personale? Quanto costa il prezzo della bottiglia nella scelta dello spumante, appunto, delle bollicine? Due cose credo che siano simpatiche da ricordare a proposito di quello che ha detto lei. Uno, che abbiamo una piccola indagine che abbiamo fatto sulla cosiddetta signora Maria o la casalinga di Voghera. Chiami lei, esatto, chiami lei come meglio crede. Di fronte a uno scaffale di bottiglie di spumante ci impiega da 2 a 4 minuti a scegliere l'etichetta. Evidentemente questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una Ci si riflette un attimo. Probabilmente anche il prezzo influisce su questo, perché la forbice dei prezzi al consumo è notevole, perché sono notevoli le differenze fra un prodotto e l'altro. Dicevo 278 denominazioni. Ma è evidente che ogni denominazione ha delle sue caratteristiche, delle sue qualità che devono essere anche espresse nel prezzo. Tenendo conto però di una cosa, che il prezzo io lo pongo nel settore spumantistico, non dico all'ultimo posto, ma forse al penultimo, perché oggi lo spumante è acquistato soprattutto perché è abbinabile con qualunque cucina, è abbinabile con qualunque piatto e con qualunque cultura alimentare mondiale. Io credo che il successo degli spumanti italiani nel mondo rispetto ai nostri cugini, ai nostri parenti più stretti e forse anche più blasonati, è dato proprio dal fatto della semplicità del consumo, del prodotto fresco, magari con una minore gradazione alcolica e con la possibilità che ogni consumatore trovi il suo prodotto ideale. Dottor Comolli, secco o dolce? Uno e l'altro. quale preferiscono gli italiani? Degli italiani preferiscono il termine è brutto, è brutto perché è brutto, ma preferiscono il secco. All'estero invece c'è una prevalenza, e lo dimostra l'Asti e lo spumante, che sono gli unici due spumanti al mondo che hanno le caratteristiche aromatiche del dolce. Lei è un esperto, ci deve dire qual è il prodotto che ha in assoluto, secondo lei. Ovviamente non vogliamo fare pubblicità a nessun articolo in particolare, a nessuna grande marca, però sicuramente un esperto, molto meglio di un'altra persona, sa darci il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il rapporto con qualità-prezzo oggi a prescindere dal gusto personale, che poi magari ma anche indipendentemente dalla, diciamo così, dalla nazionalità, perché i numeri che noi riscontriamo come osservatorio ci servono, la statistica ci serve per capire. Oggi come oggi devo dire che il prosecco è quello che in questo momento sta rispondendo meglio a tutte le esigenze, a tutte le richieste del consumatore finale. Tra l'altro è anche un bel regalo da portare magari in famiglia, qualora si fosse in queste vacanze ospiti di qualche parente, di qualche amico. Mi sembra un regalo anche intramontabile questo, no? Intramontabile, semplice, comodo, e si spende anche relativamente poco, perché una bella confezione di una bottiglia o di un magnum che soddisfa più persone evidentemente a cena, è un bel biglietto da presentarsi in casa di un amico. Dottor Comolli, il tempo a nostra disposizione è scaduto, però io ho 30 secondi di tempo per fare raccontare lei stasera cosa metterà sulla sua tavola, sulla tavola per i suoi amici o per i suoi parenti, soprattutto che in che tipo di vino abbinerà le pietanze. Ho tempo di farle questa domanda, insomma. Sì, beh, come emiliano devo dire che sicuramente sarà una pasta il piatto principale, perché è una pasta fatta con la pasta sfoglia e con un ripieno di verdura per essere leggero. Dopodiché, essendo un amante anche di un piatto che è storico, che è di una tradizione di grandi gourmet, cioè il piccione, faccio dei piccoli piccioni ripieni, sempre anche questi con noci e prugne. E spumante. Con completare il pasto. Lo spumante è d'obbligo anche sulla carne, sì, perché oggi credo che sia molto soggettivo il consumo, e anche il mio. Non esistono più quelle regole, secondo me, che abbinavano per forza un prodotto all'altro. Quindi inizieremo sicuramente con uno spumante metodo italiano, come aperitivo e come con la prima pasta, quindi leggero, brioso, effervescente, per poi bere un metodo classico di una delle grandi zone italiane, perché ricordiamo che Trento, DOC, Franciacorta, DOCG, Alta Langa, DOC sono, e l'Oltre Po Pavese sono tre e quattro zone dove si beve un ottimo metodo classico. Dottor Comolli, grazie molte. Comolli, buon Natale naturalmente a lei. Grazie a lei, Deborah Rosciani, un augurio di buon Natale e felicissimo Natale a tutti. Grazie, grazie molte. Era Gian Pietro Comolli, direttore Forum Spumanti d'Italia. Soldi e dintorni termina qui. Anche da parte mia, buona vigilia a tutti e buon Natale a tutti. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Termina qui questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata al meglio delle trasmissioni andate in onda nelle scorse settimane. Un augurio di buon 2010 a tutti.